piatto tutta la meraviglia della nostra terra. Orogel, la meraviglia di ogni giorno. Meraviglioso. Radio 24. Libera la voglia di fare. Fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi e con Carlo Gabardini. See the girl with the diamonds in her shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the go getter. She's everybody's side. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold side. I got faith in your baby. I got faith in you now. And you've been such a, such a good friend to me. Know that I love you so high. I made you, hallelujah. I got faith. Tensioni nel PD sul caso Boschi, il partito al 23,4%, l'affondo di Andrea Orlando, non vedo Renzi Premier, titolo principale del Corriere della Sera. Vienna, difesa e interni agli estremisti di destra. Così apre la Repubblica, nasce il governo blu-nero, prima l'Austria, stretta sugli immigrati. E poi l'editoriale di Eugenio Scalfari, le grandi sfide che minacciano il futuro dell'Europa. Anche la stampa, in Austria la svolta nazionalista, l'ultradestra conquista il governo, parla D'Alema, anche l'Italia rischia di fare la fine di Vienna. Buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica da Carlo Gabardini. Allora, cari ascoltatori, questa non è una rassegna stampa, noi siamo a la caccia al tesoro del sabato e domenica mattina, cerchiamo buone notizie sui giornali di oggi. La rassegna stampa vera e propria l'ha già fatta Giulia Crivelli nell'ora precedente. Ciao Giulia, buona giornata. Altri titoli, per esempio Libero, rubano anche un titolo domenicale. È un tiro leggero, rubano anche sull'inquinamento, Salasso antismog, lo Stato preleva 462 euro a famiglia con la scusa di raccogliere fondi per tutelare l'ambiente. Invece su Il stavo Giorno... cercando di capire, di decifrare questo titolo, ma bisogna leggere l'articolo come sempre per capire i titoli. E non te la di sei sentita? Non me la sono sentita. Invece c'era su Il Giorno stamattina, in prima, in prima... abbiamo fatto l'allarme, la prova antiallarme, c'era una sirena che ha suonato per mezz'ora di fila. Forse avete sentito qualcosa anche durante la diretta. Non so se entrava qualcosa. No, siamo riusciti a isolarlo e siamo tutti un po' rintontiti stamattina, Quindi vediamo quello che riusciamo a fare. Carlo, stavi dicendo? Niente. Allora, sul Libero però c'è una notizia. Una notizia che può essere una buona notizia. Il paesino si tassa per curare un gatto. Allora, accade che al comune di Campedello di Mazzara, che ha salvato e curato un gattino randagio affetto da AIDS a spese del municipio, c'è stato un gruppo di persone che ha protestato per i 2.120 euro spesi per guarire il gattino, ma naturalmente invece la maggioranza degli abitanti di questo paese hanno difeso la scelta del comune. Quindi una notizia che piacerà agli animalisti, anche a te Carlo che hai il gatto. Su Il Giorno invece in prima pagina ha annunciato una lunga intervista a Davide Casaleggio, il guru dei 5 Stelle e l'intelligenza artificiale, il quale dice: il futuro è arrivato, robot e algoritmi faranno la rivoluzione nel lavoro, ogni anno crescita doppia, e dice che dei robot entreranno nei consigli d'amministrazione. E allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, microfoni aperti, vi aspettiamo per commentare quello che volete. Per giocare con noi cerchiamo un personaggio della settimana e il primo indizio che vi vado a dare è questo: il personaggio resiste. Quindi pensate a una notizia degli ultimi 7 giorni ed un personaggio che resiste. Cominciate a digitare il numero verde. Traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Well, well, well, it's been such a long day. I'm kinda tired, bring a soothing arms my way. My back is aching and my body's sore. Don't stop, honey, you know. Giallo sulla salma d'Erella, abbiamo letto il titolo del giornale, e scontro sui Savoia. Molti giornali si occupano di questa cosa, anche il Corriere della Sera. Il re delle guerre ritorna in Italia. E allora cosa possiamo fare noi? Possiamo fare un piccolo momento di storia, no? Di ripasso storia. Vittorio Emanuele III, non tutti sanno forse che ha regnato dal 29 luglio del 1900 al 9 maggio del 1946, ben 46 anni. Sul Corriere della Sera, in mezzo ci sono state parecchie cose. In mezzo è scappato anche, così per ricordarlo. Esatto, infatti il Corriere fa le classiche due interviste. Simonetta Agnello Ormi, che dice: riaprire le porte è un atto umanitario legittimo e intelligente. Poi lo storico Piero Craveri, che dice: inaccettabile la finzione che la memoria sia ricomposta. Questo è il titolo, ma il fatto è questo: un re che aveva tradito la sua stessa costituzione, accettato il fascismo. Queste sono le cose storiche per cui viene accusato Vittorio Emanuele III, firmato le leggi che sopprimevano le libertà basilari, le leggi razziali, portato l'Italia in guerra. Mi fermo o vado avanti? È uno dei motivi per cui tanti si stupiscono, per cui non è che ci sia proprio questa mobilitazione per il fatto che la salma stia tornando, anzi direi che loro stessi lo fanno un po' di nascosto. Poi qualcuno dice bisogna mettere la salma al Pantheon, qualcuno dice al Pantheon no, però insomma la discussione è su questo. Allora, abbiamo detto dell'Austria, la svolta nazionalista dell'Austria, titolo di molti giornali di oggi. Intanto però la prima cosa di cui sembra che si parli in Austria è del fatto che il nuovo governo vuol tornare indietro sulla questione del divieto di fumare nei locali pubblici, cioè fumo libero nei locali pubblici. Potrebbe diventare questo un prossimo tema di Si può fare, da sottoporre anche agli ascoltatori. Potrei cambiare parte politica, non sapevo che gli estremisti di destra fossero a favore del fumo nei locali pubblici. Questa potrebbe diventare per te un'ottima notizia. Esatto, ho smesso da più di un anno. E allora, invece noi parleremo di un altro Si può fare tra poco, che viene dalla Francia, ed è questo, l'avete forse sentito, il presidente Macron e il ministro dell'istruzione vogliono vietare i cellulari definitivamente nelle scuole elementari e medie. E la data si avvicina, perché è dal primo gennaio, dal ritorno dopo l'Epifania a scuola, dopo le vacanze. Teoricamente un divieto esiste anche in Italia, non è granché applicato. Il ministro Fedeli in Italia ha detto vuole riaprire un approfondimento per capire se ci può essere un uso positivo del cellulare in classe. Il punto è semplice, con lo smartphone si fanno cose utilissime, ma queste tecnologie ci devono essere dei momenti in cui vanno limitate, spazio, temporali. La scuola può essere uno di questi momenti? Noi lo chiediamo a voi, ne parleremo tra poco. 800 24 00 24. Parleremo anche di imprenditori italiani, perché dati Eurostat alla mano l'Italia continua ad avere un record di attività commerciali, quindi questa ci fa piacere. All'interno di questo record italiano in Europa abbiamo anche una crescita delle imprese gestite da stranieri, più qualcosa per cento, siamo al 10% del totale. Quindi oggi, ascoltatori controllori dei fatti, vi chiediamo: se lavorate in un'impresa gestita da un cittadino di origine straniere, può essere un bar, può essere un ristorante, una lavanderia, può essere una piccola attività, un supermercato, chiamateci. 800 24 00 24 è il momento di rivelare come si sta sotto padrone, usiamo questa parola, straniero. E poi vi ricordo, cerchiamo un personaggio della settimana che resiste. Allora, buone notizie ne abbiamo sui giornali? Veramente poche, direi. Veramente poche. Ho letto che Mastella torna in politica. Non so se sia una buona notizia o è la nostra notizia assolto. Da urlo. Mastella ritorna al centro e afferma: il centrodestra ha bisogno di me. È buono che subito ci dica il centrodestra, perché siccome non sappiamo, è stato al governo con Prodi, è stato al governo di qua, di là, un po' da tutte le parti, giusto per capire con chi si candida questo giro, direi che dice: il centrodestra ha bisogno di me. Allora, io per alleggerirti, Mastella, ti butto lì un super titolo, vai. Sport, la gazzetta sportiva, naturalmente, con Interrotta. Napoli al top. Beh, questo glielo diamo così di incoraggiamento, perché Interrotta potevano fare meglio. Un classico titolo. Da gazzetta. Intanto, battuta d'arresto per l'Inter, la Roma che vince all'ultimo secondo, il Napoli che va avanti, e vediamo poi, non so chi gioca, tutti quegli altri oggi, naturalmente, il resto del menù del calcio. Allora, buone notizie. notizie ne abbiamo? Buone notizie ne abbiamo in prima pagina della Repubblica. Siamo al dunque. Pinotti, ministro della difesa: dimezziamo i soldati in Iraq e verranno ridotti pure in Afghanistan. Bisogna dire che questa notizia è stata data tante volte, questa della diminuzione dei soldati in Iraq, che a questo punto tantissimi, che se fosse sempre vera dovrebbe essercene rimasto uno solo a forza di dimezzare. Siamo alla scissione dell'atomo, un po' come nel mondo della sinistra, ma questo è. La ministra Pinotti annuncia un dimezzamento dell'impiego di militari in Iraq, che però verranno spostati dove? In Africa, esatto, in Niger, perché si annunciano operazioni nel Sahel, un'operazione dell'ONU e dell'Unione Europea per, dice la Pinotti, proteggerci dal terrorismo, ma anche per la lotta alla rete criminale che ha gestito l'immigrazione clandestina. Quindi un nuovo concetto di interesse nazionale legato anche alla questione dell'immigrazione. Il Quirinale è irritato per le richieste dei Savoia di portare le salme al Pantheon. Repubblica a proposito dei Savoia. Invece sulla pensione, sulle pensioni elite, sulle cifre di Di Maio, scontro con i Dem sugli assegni d'oro. I conti non tornano, gli viene detto, ma i 5 Stelle rispondono: noi ci riferivamo a risparmi su più anni, perché i risparmi che avevano calcolato per la questione delle pensioni sembravano troppo ingenti, effettivamente su più anni. Diventa difficile calcolarla in questo modo. Questo è importante, questo argomento, perché in effetti questa cosa del taglio delle pensioni d'oro è una proposta che sta un po' entrata nel dibattito della già partita campagna elettorale. Però in effetti i conti che fa Repubblica sono: Di Maio parla di 12 miliardi di risparmi, ma questi risparmi si avrebbero se si eliminassero completamente tutte le pensioni da 5.000 euro. In più, ma non si possono eliminare, si possono direi di no, tagliare, nel senso, insomma, non si può nemmeno proporlo, perché tanto sappiamo tutti che poi non passerà, quindi è pure semplice campagna elettorale. Però io starei lì a proporre un taglio delle pensioni d'oro finché non passa, perché in effetti le pensioni sopra, ora non so se 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, mettete voi il limite che volete, però ci sono delle pensioni che però sono bruscolini in confronto alle cifre vere. Dici? Va benissimo farlo, ci mancherebbe altro, fosse anche solamente un segnale simbolico, giustissimo, c'è un sacco di gente che sta male, ma non è così che si risana il debito pubblico eliminando qualche migliaio di pensioni d'oro. Però sono d'accordissimo che andrebbe fatto, ecco. A proposito di spiccioli, abbiamo una notizia, non si può fare, che viene da Torino, che riguarda il Bitcoin, perché si segnala il primo negozio nel quale si può pagare coi Bitcoin. Ora io non so se è una buona notizia, non so a cosa serve poter andare in una tabaccheria a pagare coi Bitcoin, ma il signore Roberto Malanca, che tra l'altro è un consigliere credo comunale grillino, ex informatico, annuncia che si potrà pagare nel suo negozio con la criptovaluta a Torino. Appunto una tabaccheria, a volte basterebbe che accettassero il bancomat tutti. Esatto, tra l'altro tabaccheria non si può, i tabacchi non si possono pagare con il bancomat. Mi sembra interessante questa questione del Bitcoin, anche se ovviamente essendo una moneta virtuale, l'unica cosa che non dovrebbe interessare a una moneta virtuale è quella di diventare reale e improvvisamente essere scambiata con dei foglietti da tenere dentro in dei portafogli, perché insomma stiamo tornando indietro, poi a un certo punto può anche tornare il tallero. È buona la notizia per quegli 8 su 10 cittadini italiani che, annuncia il Corriere della Sera, si metteranno in viaggio a Natale. Oltre 15 milioni di persone partiranno per una vacanza. Durante le festività di fine anno, città d'arte e montagna sono le mete preferite. Potrebbe essere il titolo dell'anno scorso o di un anno fa, o di due anni fa, ma insomma ci fa piacere che molti italiani faranno un piccolo viaggetto, magari andando a trovare i parenti a Natale, e questa è una buona notizia. Poi dipende dai parenti, giusto, ben detto, bingo. Allora, beh, insomma, però siccome noi siamo Si Può Fare e abbiamo questo compito, vi abbiamo trovato le 5 migliori notizie della settimana. Vai. Give me five. All right. Give me five. E allora, eccoci qua, cominciamo, perché non ho trovato il foglio con le 5 migliori notizie. Io ce l'ho. Bravo, allora, a Gubbio riapre il Duomo dopo il restauro, dopo le scosse di terremoto. Il Duomo di Gubbio è stato restaurato, adesso riapre finalmente al pubblico, dovrebbe riaprire proprio in queste ore, ed è una bellissima notizia, siamo felici. Ne sono felicissimo, conosco bene Gubbio, ci vado spesso alla Corsa dei Ceri, quindi sono veramente contento. contento, mi sembra un'ottima notizia. Invece al quarto posto un'altra buona notizia: made in Trieste i biglietti per i mondiali in Russia. Come ormai tristemente tutti sappiamo, noi ai mondiali di calcio come nazionale non ci andremo, però ci sarà ugualmente un pezzetto d'Italia, perché 5 milioni di spettatori entreranno negli stadi con biglietti dotati di speciali microchip a prova di contraffazione, che sono proprio prodotti in Italia dalla Giulia Arti Grafiche. Facciamo i complimenti a Mario La Penna. Bene, bene, terzo posto, siamo sul podio. Allora, siccome tante volte ci diciamo che l'Italia è un paese razzista, tendenzialmente razzista, dove riaffiora il razzismo, eccetera, eccetera, invece no, sappiate che non è così, ce lo dice l'Europa, perché è stata fatta una mappatura all'interno di un progetto che si chiama BEST, non chiedetemi di spiegare in inglese, Promoting Best Practices, eccetera, eccetera. Comunque è un progetto europeo che monitora che cosa? Le iniziative locali che diffondono la cultura dell'inclusione, promuovendo la conoscenza tra culture, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco cosa viene fuori: che l'Italia aveva 62 iniziative di community building, si chiama così, contro le 55 della Francia, 50 in Germania, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, in Europa siamo i più bravi a fare l'inclusione, quindi non siamo un paese razzista, dai. Al secondo posto invece Facebook, come sempre noi stiamo molto attenti a questa notizia su i grossi gruppi e il pagamento delle loro tasse. Forse non è ancora un si può fare, ma è sicuramente un ci piacerebbe venisse fatto. Passo verso la trasparenza fiscale, perché dichiarerà i ricavi nei paesi dove li realizza. Facebook ha annunciato con un post che passerà una struttura di vendita locale nei paesi in cui è presente un ufficio che tratta direttamente con inserzionisti locali, quindi i ricavi pubblicitari realizzati in un paese dovrebbero in teoria essere tassati nel paese dove vengono prodotti. Poi in realtà qualcuno dice sì, però in questo post diciamo resta da vedere se veramente inizieranno a pagare le imposte, perché sono molto vaghi sulla questione delle imposte, perché poi basta dire che hai delle spese e segnarle nella sede sbagliata, però insomma noi ne siamo contenti, è un passo verso. Le post nel post mi ero nato. Diciamo che speriamo che non sia una fake news. Esatto, ecco, e speriamo questo. Che le paghino davvero queste tasse. A proposito di tasse, primo posto, anche qua gliela diamo un po' sulla fiducia. L'avete sentito sicuramente se siete ascoltatori di Radio 24, lettori del Sole 24 Ore, perché la notizia della settimana è che il fisco dall'anno prossimo invierà a tutti noi che paghiamo le tasse una letterina nella quale spiegherà in che modo sono stati investiti i nostri soldini delle tasse. Un piccolo passo anche questo di trasparenza, che certo ci piacerebbe fosse accompagnato da pagare magari un po' meno, un po' meglio, un po' meno in maniera un po' meno contorta, magari un numero minore di tasse, perché l'Italia è il paese della contorsione fiscale, ma questo della lettera ai contribuenti è un inizio. Bene, lo premiamo. Ciao Alessio, ciao Carlo, sono Massimo, sono a Londra, sono nel 2050, non mi sono mai inoltrato così tanto. Oggi è una giornata molto emozionante per me, perché ho quasi 70 anni, sono ancora in grandissima forma come potete immaginare, ma ho deciso di cominciare a pensare al mio futuro, il mio futuro dopo la mia presenza qua su questo grandissimo pianeta. In particolare oggi andrò a depositare tutta la mia rete neurale all'interno di un server che custodirà la mia intelligenza, quella poca che ho creato in questi anni sulla Terra, con tutte le mie esperienze, con tutti i miei studi, e le lascerò su questo server che permetterà di accedere alle mie pronipoti e alle mie nipoti che stanno per nascere in questi giorni, anche nel futuro, alla mia conoscenza e a magari ai miei consigli per magari un fidanzato, piuttosto che una scelta da prendere anche nel futuro. Io so che lì state, nel 2017 state pensando e state ragionando sul testamento biologico. Ecco, qua nel futuro, nel 2050, stiamo ragionando sul testamento informativo, il testamento che ha a che fare con le informazioni della nostra vita, con la capacità, con la coscienza, con quella che alcuni possono chiamare anima. Ecco, insomma, oggi può essere scelto se lasciarlo su un server e soprattutto se poterlo fare evolvere nel tempo grazie alle connessioni che il server stesso può intraprendere con il mondo stesso del web. Insomma, grandissime novità dal futuro, io vi richiamo per altre incredibili innovazioni. Ciao! Si può fare. Cronache da un paese migliore.

Prego. Allora, io penso che sia Maria Elena Boschi il personaggio della settimana, perché più lei resiste molto. Abbiamo detto che resiste come indizio. E resiste molto resiste. Anche come notizia, direi che resiste. Certo, certo. Sì, ma Travaglio ha cercato di metterla in difficoltà l'altra sera, ma sì, lei ha resistito molto bene. Non ho visto quella puntata, qualcuno dice che l'ha fatta a pezzi, qualcuno dice che ha resistito. No, ha resistito perché lei cerca la verità, non si sa bene quale sia, però lei resiste. Va bene, al di là del contenuto della notizia, Maria Elena Boschi è un personaggio sicuramente della settimana che resiste, ma era un gran bel trappolone, possiamo dirlo a questo punto, Giorgio, perché non era lei a cui avevamo pensato. Beh, comunque, però sono contento lo stesso. Ecco. Ma anche noi siamo contenti di aver ricordato, anche se non era una notizia di nicchia, ma siamo contenti di aver ricordato la notizia di Maria Elena Boschi. È un altro il personaggio che resiste. Continuate a pensare e a cercare la notizia degli ultimi 7 giorni. 800 24 0024. Devo fare un commento sul si potrà fare di Massimo Temporelli, che avete sentito collegato dal 2050 e qualcosa, perché come sempre le sue incursioni dal futuro sono sviluppi di notizie di oggi. La notizia della settimana è che alla Silicon Valley si sta effettivamente discutendo, studiando, approfondendo, investendo denaro sull'elisir di lunga vita, e quindi questa tematica nuova che entra anche nel mondo dell'high tech, cioè nuova insomma. È una tematica, c'è chi dice che tutti stanno investendo su quello, su che quello, è l'unica sì, cosa che ha senso, che ci saranno dei triliardi di soldi investiti sull'elisir di lunga vita o sull'allungare la vita media. E adesso andiamo in Francia, perché se abbiamo detto che dall'Austria la notizia che arriva oggi è che il nuovo governo vuol togliere il divieto di fumo nei locali pubblici, la Francia invece sui divieti ci ha costruito una carriera, potremmo dire così, e adesso il presidente Macron ha annunciato che entrerà in vigore il divieto di uso del cellulare, dello smartphone, in tutte le scuole elementari e medie, ma proprio un divieto tassativo. E allora noi non potevamo non convocare Leonardo Martinelli from Paris. Ciao Leonardo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Leonardo. Allora, ci racconti un po' questa notizia, se giunge così estemporanea, no? Perché era una delle promesse della campagna elettorale di Macron. Beh, soprattutto poi Macron ha promesso proprio di rifare in un certo senso il sistema di istruzione pubblica in Francia, che è un po' in difficoltà, diciamolo. Ha nominato un ministro che si chiama Jean-Michel Blanquer, che è un ministro che anche nei sondaggi è molto popolare, è un tecnico in realtà, non era un politico, era qualcuno che è stato sempre diciamo funzionario pubblico e che aveva sempre seguito il settore della scuola. Devo dire che questo Jean-Michel Blanquer ne spara una alla settimana, perché praticamente fa un annuncio dietro l'altro. Vi dà materiale, insomma, di lavoro. Sì, sì, sì. E diciamo che questo annuncio, sì, l'ultimo annuncio è quello che appunto tu dicevi, cioè la proibizione, il divieto del cellulare nelle scuole, questo sarà in vigore da diciamo il settembre 2018, quindi dall'anno prossimo. Ah, non da gennaio. Avevamo capito dal primo gennaio, meglio, da dopo l'Epifania. No, è dall'inizio del prossimo anno scolastico, anche perché la Francia sì è campione nei divieti, ma è campione anche nelle polemiche, in questo sì, è abbastanza simile all'Italia, quindi già sono iniziate le polemiche da parte di chi dice che alla fine ha un uso diciamo razionale e ragionevole del cellulare anche a livello pedagogico per le lingue straniere, può essere utile eccetera eccetera, anche se nei sondaggi diciamo globalmente l'opinione pubblica francese è favorevole. Ecco, ma infatti Leonardo, cioè come mai secondo te Macron ha fiutato questa notizia, ha vinto le elezioni per certi aspetti inaspettatamente, un anno prima che le vincesse nessuno avrebbe pensato che lui potesse essere nuovo presidente, invece ha fiutato questa notizia? Perché i francesi hanno questa ritrosia, idiosincrasia, qualcosa di che non va con il cellulare, o che cosa secondo te ha spinto questa notizia? Effettivamente c'è un problema con il cellulare nelle scuole, ecco, questo non voglio essere un po' francesizzato, ma credo che no, certo, ma è una polemica che c'è anche in Italia, nel senso che questa avversione nei confronti del cellulare all'interno degli istituti scolastici. Allora, innanzitutto appunto c'è un problema, diciamo, oggettivo. I francesi cercano sempre di, cioè non sono campioni di pragmatismo, ecco, quindi cercano sempre di regolare le cose in maniera molto precisa, anche troppo, e spesso anche con dei divieti. Direi anche che questa polemica del cellulare si inserisce proprio nel contesto anche di tutto un dibattito sulla scuola. Diciamo che per anni, parlo proprio di 20-30 anni, l'evoluzione in Francia è stata innanzitutto di rendere la scuola, ogni volta che c'è un cambio di governo, ostaggio di una visione ideologica anche. E diciamo che in generale si è voluta democratizzare, quello che dicevano soprattutto le maggioranze di sinistra, questa scuola francese, rendendola in un certo senso più facile, più accessibile a tutti, un liceo accessibile a tutti, quindi anche screditando professionali e tecnici. Sto dicendo tutto questo perché poi alla fine proprio nei risultati, diciamo, di qualità di questa scuola sono molto, insomma, abbastanza deludenti, soprattutto negli ultimi anni. Quindi da parte dei francesi ora c'è una voglia anche un po' di rigore, in un certo senso. Ma quindi hai la sensazione che sia più una mossa, nel senso che la scuola ha bisogno assolutamente di essere riformata? Questa è una notizia che fa parlare moltissimo, fa perché gola. Tutti i giovani, non so, me li immagino addirittura in piazza, che uno dica: il telefonino è mio e lo gestisco io. Lacrime. Anche perché personalmente quello che penso, è vero che sicuramente il telefonino può distrarre, ma un sacco di altre cose possono distrarre, e i professori, certo, hanno sempre avuto gli strumenti in mano per far sì che gli studenti non si distraggano. Se poi lo fanno con un telefonino o con un giornaletto, a me non cambia niente personalmente. No, però si inserisce proprio in questa polemica sulla scuola, che però è anche dovuta al fatto che il livello di preparazione, soprattutto del liceo, si è ridotto tantissimo in Francia, certo. Anche se poi loro certi non lo vogliono sentir dire in Francia, ma poi anche nelle inchieste internazionali, tipo quelli in Valsi, viene sempre fuori che la Francia va sempre più giù. Ma il comune è mezzo gaudio. Noi parliamo sempre di noi che andiamo giù e non ci accorgiamo degli altri. No, addirittura Blanquer, questo ministro, è molto, diciamo, ammira molto il sistema italiano. Almeno lui, perché gli italiani non lo ammirano. Libro. No, infatti, ma secondo me gli italiani invece, se venissero in Francia, ammirerebbero il loro sistema scolastico. Vero. E Blanquer aveva scritto un libro dove soprattutto aveva elogiato molto la maturità italiana, cioè questo misto che per noi è scontato, sì, di orale e scritto, gli scritti concentrati su alcune materie, il peso anche se relativo dei voti avuti l'ultimo anno, perché qui in Francia si fanno prove su tutte le materie, solo scritte praticamente, e i voti dell'ultimo anno non hanno praticamente influenza. Uno potrebbe dire: ah, ma allora è difficile. In realtà non è per niente difficile la maturità in Francia. E lui ora ha proprio, insieme a questa misura del cellulare, ha introdotto, sì, ha detto che sono già arrivati a un certo, sì, livello, diciamo, di concezione di questa nuova maturità, e lui stesso ha detto, prendendo spunto dall'Italia, tra l'altro appunto credo che in Italia non si sia detta questa cosa, ma per una volta i francesi guardano all'Italia. E devo dire che, se vogliamo parlare di scuola, a me spesso mi è capitato di parlare anche con specialisti della scuola in Francia che conoscono l'Italia, e che dicono che in fondo l'Italia, a forza di non riformare, a causa della sua inerzia, cioè siamo rimasti fermi lì con la nostra, ha mantenuto un liceo di qualità, Mentre la Francia, allora, però, a forza di, sì, cambiare ogni anno, è venuto fuori quello che è, insomma, ecco, cioè. Allora mi smentisci completamente un Massimo D'Alema che oggi in prima pagina della Stampa ha intervistato, dice addirittura: oggi la Francia coltiva tentazioni egemoniche, che non so perché hanno fatto il titolo su questo, nei confronti del nostro paese. Il presidente Macron ha un atteggiamento quasi coloniale. Invece apprendiamo, vedi, da Leonardo Martinelli che, per quanto riguarda la scuola, vengono a copiare da noi. Ma per parlare di questa notizia del cellulare, tra l'altro mi corre l'obbligo di dire che in Italia esiste una sorta di divieto che risale al 2007, ma non è sostanzialmente applicato in maniera omogenea in tutta Italia. Il ministro Fedeli, applicabile addirittura, applicabile forse, perché ci vogliono gli armadietti, per esempio. Il ministro Fedeli ha detto che sta approfondendo la materia, ma noi, per commentare questa notizia, abbiamo convocato una insegnante, e chi potevamo scegliere? O la insegnante. Se non la migliore insegnante che abbiamo al momento su piazza. Si chiama Lorella Carminali, lei è insegnante di matematica al liceo scientifico Vittorio Veneto di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Ci tenevamo a disturbarla la domenica, giustamente. Per farmi svegliare presto. Sì, esatto. Perché questa signora, questa professoressa, questa docente, lei è una delle 50 docenti selezionate tra più di 40.000 nel mondo per il Global Teacher Prize. E complimenti intanto. Cioè, potrebbe vincere $1,000,000, giusto? Potrei vincere $1,000,000 da investire in progetti da me ideati e sostenuti. È per questo che la chiamiamo con un certo anticipo, perché speriamo, speriamo assolutamente, e poi vogliamo parlare di tutti i progetti molto volenti, tutti si può fare che si inventerà per investire questo milione. Allora, professoressa, mi resti in collegamento, abbiamo un minuto di pausa sul traffico e poi torniamo subito. Si può fare. Allora, intanto professoressa Lorella Carimali, del Liceo Scientifico Vittorio Veneto di Milano, selezionata per il Global Teacher Prize. Le hanno spiegato perché l'hanno selezionata? Cioè, cosa ha fatto per meritarsi tutto ciò? Quello che ho fatto è sostanzialmente avere ideato una metodologia didattica per l'insegnamento della matematica con il motto che voi avrete letto un po' dappertutto: non uno di meno, non una di meno nella matematica e nella vita. Bello. Questo. Voglio dire, ha inventato una metodologia didattica, perché sembra niente, ma insomma, mi sembra tantissimo, tantissimo. Io prima ascoltavo con piacere la discussione sulla scuola e penso che la cosa che si debba fare oggi è trovare un modello didattico e pedagogico nuovo al passo con i tempi di una scuola che deve rispondere alle esigenze di questo tempo. Quindi già la vedo che mi entra a gamba tesa sul Macron che vuol vietare il cellulare. Ho ascoltato con piacere. Anche perché forse giustamente, cioè, quello che sta dicendo è che forse bisogna cambiare il metodo di studio piuttosto che l'uso dei telefonini, perché forse molti usano i telefonini perché a scuola si annoiano moltissimo, perché a scuola hanno delle lezioni frontali insostenibili, o sbaglio? Quello che penso è che non è possibile che la scuola oggi sia la scuola ancora di 30 anni fa. La tecnologia pervade tutto e quindi chi può fare educazione digitale? No, noi sappiamo che l'Italia c'è una percentuale alta, no, di analfabeti funzionali per matematica, certo, e per italiano. Non vorrei che fra un po' di anni ci siano anche degli analfabeti digitali. Quindi piuttosto che dire smartphone sì, smartphone no, ma perché usare lo smartphone? Certo. Per come, anche per come. Lei cosa fa in classe, professoressa, con i suoi studenti? Cerca di, come dire, di controllare l'uso del cellulare, gli chiede di spegnerlo, come fa? Allora, io magari contravverrò a qualche norma adesso. Ministeriale. Le tolgono il premio subito, glielo danno e poi glielo tolgo. No, adesso io sono il simbolo dell'Italia e quindi è il mondo che mi premia, tra virgolette. Giusto, giusto. Il ministero non può nulla, non può nulla. Io sinceramente non mi sono mai preoccupata più di tanto. Prima si diceva se uno studente o una studentessa è interessata perché dovrebbe fare altro, cioè a me interessa che tutti partecipino alla lezione. E con lei partecipano? Partecipano tutti. Hanno paura del 4? No, ho sempre combattuto con la paura, perché la paura ti fa fare una cosa nell'immediato, non nel futuro, quindi... Ma com'è brava questa professoressa, voi dovreste vedere la foto, posso dirlo, ha un volto, ha una faccia bellissima, è una donna, quindi può suonare come un complimento una lusinga stupida, ma invece ha proprio un'aria di una... di quelle insegnanti che tu vorresti averla tutta la la vita un insegnante così. Vi faccio sentire a tutti e due, Leonardo Martinelli e la professoressa Carimali, la scuola buona di Alex Corlazzoli, il nostro maestro che la domenica ci ricorda che cosa succede di buono nelle scuole italiane. Questa volta era in viaggio in Uruguay. Leonardo Martinelli, te la dedico perché tu hai vissuto in Uruguay. Sentite qua che cosa accade lì. Ciao Carlo, ciao Alessio, la scuola buona di questa settimana è quella dell'Uruguay, da dove sono da poco rientrato dopo essere stato anche in Cile. Pensate un po', il paese dell'ex presidente Pepe Mujica, l'uomo che rinunciava al 90% dello stipendio per darlo ai più poveri, l'uomo che ha rinunciato alla sua residenza presidenziale, è il primo al mondo dove tutti i bambini della scuola primaria ricevono un personal computer gratuito e tutte le scuole hanno il wifi. Pensate, persino i maestri ricevono un computer gratuito. Insomma, una bella lezione per l'Italia, dove invece nel piano nazionale digitale si prevede che siano i ragazzi a portare i personal computer da casa. Come vedete, si può fare e l'Uruguay ce lo insegna alla grande come essere dei paesi davvero digitali. Oh, Leonardo Martinelli, che prima di vivere a Parigi hai vissuto in Uruguay, ci ha appena detto che la Francia guarda all'Italia, noi guardiamo all'Uruguay, l'Uruguay dove guarda? Stanno segnando la storia. Beh, l'Uruguay, la favola di Pepe Mujica in qualche modo prosegue. Vuoi dire qualcosa, Leonardo, o sei in trance? No? Sì, no, ci sono. Beh, e tra l'altro io ho visitato ovviamente molto l'Uruguay, sì. Ed è incredibile vedere ad esempio tanti bambini che arrivano a cavallo nelle scuole con il computer attaccato dietro, perché... Ma che meraviglia! Sì, ecco, pensa se arrivassero da noi, io immagino che direbbero non si può andare a cavallo a scuola, altro che telefonino. Cioè pensa se ogni ragazzo avesse legato al banco il proprio cavallo. No, ma il cavallo è come la bicicletta. No, lo so, certo. Se tu vai in Uruguay e vai in campagna, ti dicono guarda prendi il cavallo per andare, non è che ti chiedono se sai andare a cavallo. No, non c'è niente di più comodo del cavallo per andare in campagna. È normale, professoressa. Ma la cosa incredibile è che altre cose che ho visto in Uruguay è ad esempio la connessione wifi in posti impensabili, cioè quando dico impensabili vuol dire a 200 chilometri da un villaggio di 20 abitanti a 200 chilometri da un paesino molto piccolo, e ho visto i bambini con i genitori dopo la fine della scuola venire con quel computer e guardare insieme delle cose sul computer. Meraviglioso. Accanto alla vorrei scuola. Chiudere però anche con la professoressa Carimali, abbiamo solo 30 secondi, che effetto le fa il computer per ogni bambino in Uruguay? Benissimo, perché è un mezzo per cercare le informazioni. Come dicevo prima, la scuola deve allenare, deve far capire l'utilizzo critico delle informazioni che ci sono in rete, perché se no uno come potrà poi discernere qual è l'informazione corretta e quale è quella fake news. Giustissimo, no? Giustissimo. Dobbiamo condivido chiudere. Ogni sua parola, professoressa, grazie mille. Grazie Lorella Carimali, grazie a Leonardo Martinelli. Gli ascoltatori in linea li sentiamo dopo il GR 800 24 00 24. Dopo si può fare. Avevamo un sogno: offrire ad aziende e professionisti una nuova ed innovativa esperienza di gestione del personale. Reinventare il modo di amministrare, gestire e organizzare il personale con le uniche piattaforme realmente integrate, cloud e mobile. Il sogno di portare nel mondo il nostro software HR. Oggi il sogno è realtà. Le piattaforme HR Zucchetti, scelte da oltre 25.000 clienti, sono leader in Italia. Zucchetti, il software che crea successo. Noi di Mercedes-Benz vorremmo augurarti un 2018 in cui raggiungere obiettivi più alti nella vita ed emissioni più basse in strada, dove superare i tuoi limiti riducendo i consumi. Ma perché aspettare? Fino al 31 dicembre hai 4.000 euro di eco-incentivo Mercedes-Benz su tutti i modelli se permuti un'auto diesel da Euro 1 a Euro 4. Quest'anno ha ancora molto da offrirti. Scoprilo su mercedesbenz.it.

everyone's about the peace on earth. A little Christmas and for what it's worth and a whole world smiles. Allora, che cosa è successo in giro per il mondo? Sentite qua, Joe Bennett, musicologo e professore del Conservatorio di Boston, ha creato la canzone di Natale più felice del mondo. Per farlo ha analizzato le hit natalizie che hanno fatto la storia, estrapolato gli elementi comuni e creato, assieme a un'equipe di studiosi, musicisti, musicologi, eccetera, eccetera, un brano dal titolo Love is Not Just for Christmas, che è quello che state ascoltando. Questa è la canzone di Natale più felice di sempre. Oh, lo dice la scienza. E sempre, sempre una buona notizia per noi maschietti: finalmente siamo scagionati dalle nostre lamentele quando abbiamo l'influenza. Come ben si sa, o meglio, non è che si sa che noi ci lamentiamo tanto, è che soffriamo tantissimo, è vero. Io quando ho la febbre ho la sensazione che forse sarà il mio ultimo giorno di vita e inizio ad annullare appuntamenti e la qualunque. Però è uscita una bella, un bello studio canadese pubblicato sulla rivista BMG, dove viene detto che effettivamente i maschi hanno un modo diverso di reagire all'influenza. Quindi facciamo bene a lamentarci. Il testosterone limita la risposta immunitaria all'influenza, invece alcuni ormoni femminili la accelerano. Le cellule di maschi e femmine rispondono diversamente ai virus del raffreddore. Quindi addirittura viene detto che gli uomini hanno tassi di morte più alti per influenza in confronto alle donne. Quindi volevo dire che sto poco bene e ho bisogno che qualcuno mi porti un brodino e anche i cappelletti in brodo. Ecco, e soprattutto d'ora in poi non scocciateci più quando con 38 di febbre siamo KO sul divano. Abbiamo ragione noi, stiamo soffrendo. Esatto. Non ti racconto, perché non ne abbiamo il tempo, che cosa succede in una casa invece in cui nella coppia sono entrambi maschi. È un disastro, ma ve lo racconto un'altra volta. Fantastico, fantastico. Vittorio da Napoli, benvenuto, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Hai fatto stare 8 minuti a telefono, Vittorio, ti rimborsiamo la bolletta. Abbiamo pagato noi, spero. Come? No, abbiamo chiamato. Sì, mi avete richiamato. Era caduto. Stiamo pagando noi. Stai perfetto, tranquillo. Perfetto. Niente polemica. Scusaci. L'importante è che paghi Confindustria. Sì. Vabbè, paghiamo noi la Confindustria. No? E dipende, se lei è un industriale, sì. Vittorio, ma ci ha chiamato per dirci questo? Spero di no, dai, vai. No, assolutamente, ho riflettuto per 8 minuti, finalmente ho pensato. Certo. Dunque, allora, il personaggio potrebbe essere Renzo Arbore. Sì. Per Indietro Tutta, va bene, che non tramonta mai, sono 30 anni. 30 anni, 30 anni. Poi, due piccole chicche per voi. Sì. Una, per l'influenza, perché non dite che bisogna fare la vaccinazione così non si muore? Ma la vaccinazione guardi, io l'ho fatta per un periodo, però in realtà la vaccinazione è indicata solamente per gli anziani. No, cioè lui velatamente stava dicendo che noi siamo anziani, forse, Vittorio. No, io sono più anziano di voi. L'altra chicca qual è, Vittorio? Vai, che ci abbiamo gli ascoltatori. Sei mesi in poi, e poi la vostra professoressa di matematica, sì, dice che bisogna conoscere l'italiano. Lei ha sbagliato un verbo, ve ne siete accorti? Vabbè, però se la mettiamo così, insomma, che avrà sbagliato un verbo, non mi sembra così grave. Basta che non sbagli i logaritmi, quelle cose lì. Vittorio, grazie. Comunque, grazie. Mettiamo agli atti, non gliene frega nulla di sapere se ha indovinato oppure no. Glielo diciamo? Ci riteniamo sgridati, giustamente. E purtroppo il personaggio non era Renzo Arbore. Neanche tanto, purtroppo, no. Scherzo, no. Non era Renzo Arbore, che però resiste alla grande, in effetti ci stava. Alessandra da Ferrara, vai. Ciao ragazzi, buongiorno. Oh, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno, siamo qua, tutto orecchie. Vai. Vi sentite? Sì, okay. Benissimo. Allora, secondo me il personaggio della settimana è Igor. Sì, certo. Igor che è stato catturato? Sì. Esatto. Che finalmente l'hanno catturato in Spagna, però l'importante è che l'hanno catturato. Esatto. Beh, lui ha resistito, però ha ceduto. Ha, diciamo che cedere, essendo noi si può fare, la resistenza di Igor non c'è apparsa una buona notizia. La sua resistenza, anche però, perché durante la sua resistenza ha fatto diversi morti, sì. E quindi non era il personaggio della settimana. Però ti ringraziamo di aver ricordato la buona notizia, che è stato preso. Grazie Alessandro. Soprattutto visto che c'è stato stato un grande incrocio di forze dell'ordine tra Italia e Spagna, mi sembrava una bella cosa. Assolutamente, certo. L'arresto sì, l'arresto sì. Non è che tutto non funziona, funzionano anche tante cose. Sì, sì, sì. A chi lo dice Alessandra? Successo... Tra l'altro nella vostra zona è la zona dove tutto è nato, la zona dell'Emilia. Grazie Alessandra. Grazie mille, assolutamente, che sia una buona notizia. Però insomma ci sono voluti 8 mesi, qualcuno potrebbe dire che si poteva prenderlo un po' prima e con un po' meno morti. Abbiamo qualcun altro, abbiamo Doriana che chiama da Padova. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego Doriana, tocca a te. Per me la persona che resiste è un ingegnere di Padova che continua ad abitare in una zona che è abitata o frequentata prettamente da cittadini stranieri e continua ad abitare là praticamente da quando era piccolo. E chi è? Il nome? Sì. Sì, è Marco Trevisan. Ah, vedi, è preparatissima la signora. E il suo merito è di vivere e di continuare a vivere in un posto in cui ci sono tanti stranieri. Esattamente, sì. Resiste, perché questa è una storia che è venuta fuori, in effetti, e questo signore pare che lui si propone, come dice, sono l'ultimo italiano rimasto nel quartiere degli spacciatori. È una notizia che è uscita, credo che sia stato anche ospite a Radio 24, eccetera, eccetera. Cara l'ascoltatrice Doriana, che chiama proprio da Padova, però non era lui il personaggio a cui avevamo pensato. Ma c'è una notizia degli ultimi giorni che lo riguarda? Doriana, è successo qualcosa? No, so che era stato nei giornali nazionali negli ultimi tempi. Noi conoscevamo la sua storia perché i giornali locali ne avevano parlato. Però... Ma lei che è di Padova, è veramente l'ultimo italiano in un quartiere dove sono solo stranieri? Non lo so, io so di lui, non saprei altro. Va bene, grazie. Bene, grazie a voi. Ciao grazie. Doriana, non era lui. Dario da Monza. Proviamo ancora? Pronto? Pronto? Sì, sono in linea. Vai, tocca a te Dario. Secondo me è Mastella. Mastella. Certo, Clemente Mastella. Qual è la notizia? Che ancora lì, nonostante tutti i guai che ha avuto, sta fondando un altro l'ennesimo partito. Verissimo, l'abbiamo data in apertura questa notizia. Del vero, bisogna anche dire che la notizia che riguarda Mastella è che sono uscite le motivazioni della sua assoluzione nel processo per l'influenza delle designazioni ai vertici delle aziende locali, eccetera, per cui lui è stato assolto. Sono uscite le motivazioni, il fatto non sussiste, non consiste reato, non è reato. E quindi questa è la cosa che riguarda Mastella, che resiste. Resiste, ma non, non resiste come nostro personaggio. Però grazie di aver chiamato. A noi ci piaceva un altro personaggio, adesso vi diamo un indizio per portarvi sulla giusta strada. L'indizio è sulla bocca di tutti il personaggio che cerchiamo. Cari ascoltatori, tu sento le rotelline che girano, ma come, questi che abbiamo detto erano sulla bocca di tutti? Vabbè. Paolo da Impedia, chiudiamo questo blocco velocemente prima del traffico, vai Paolo. Sì, buongiorno, vorrei dirvi una cosa, non vorrei rovinarvi la mattinata. Ma no, prego. A proposito di scuola, ognuno parla senza nessuna cognizione di causa. La scuola, telefonini o no, che quelli sono l'effetto e non la causa. Più l'effetto della casa. La scuola praticamente è un contenitore vuoto dove non si fa a livello educativo, etico, educazione civica, storia, filosofia, non si fa assolutamente niente. Tu come fai a saperlo? Ma in che senso? Io lo so, ho frequentato scuole da nord a sud e sono ex insegnante e sono entrato nelle scuole. Ho chiesto ai ragazzi, sono sicuro, provate a entrare e chiedere le cose più banali. Ma non solo agli alunni, provate a chiedere a un professore di mettere in fila 7 imperatori romani in ordine cronologico, state sicuri che non è capace. Glielo chiediamo, ce li mette in fila lei Paolo, ci dia una mano, dai, con questi imperatori, chi sono? Vediamo. Chi sono? Io vi posso dire i più semplici di tutti. Ma Augusto. Cioè neanche lei riesce a metterne 7 in fila, e fa il professore? Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone, Galbo, Ottone, Vitellio, Vespasiano, Tito, Domiziano. Li sa tutti! Ma non sono i 7, mi scusi, stiamo parlando dei 7 imperatori? Tu li sai, Carlo? Siamo a 14 qui. Io ne ho messi 12, se volete vado avanti. Ma... ma Ma non scherzo. Ma il problema però quindi è degli insegnanti, cioè di voi insegnanti che non no, siete... No, la colpa è... Aspetti, adesso la dico più grossa. Vada. È il potere che vuole così. Dicevano i latini vulgus volte decipi ergo decipiato, cioè il popolo vuole essere ingannato, quindi sì, che sei ingannato. Ma una cosa più, andarti a leggere questo di Chomsky, i 10 punti di una sua, di un suo scritto, sì, sono due pagine, sì, intitolato Armi silenziose per guerre tranquille. No, Chomsky è un grandissimo ma questo è niente, andate, sono due una paginetta e mezza. Ci sono 10 Scusa Paolo, punti. Ma tu adesso cosa fai nella vita? Non sei più insegnante? No, io adesso regalo sì, libri e mi filo nelle scuole e chiedo agli alunni e vedo che c'è lo sfascio. Regali libri? In che modo? Raccontaci un po', velocemente. Come regalo libri? Sì. Prendo i libri che non legge nessuno, che nelle librerie non esistono e non conosco neanche i professori. Soprattutto di cultura. Ma dove di... li prendi questi libri che poi regali? Nelle librerie, dove li prendo? Li compri? Ma si dice che i libri che non esistono... No, non esistono nel senso che non li hanno, bisogna ordinarli. Certo. Ora vi dico una cosa. No, ma scusa, tu compri i libri nelle librerie e poi vai a regalarli nelle scuole? No, nelle scuole, persone che conosco, sperando che li leggono. E tra l'altro, dimmi il titolo di un libro che regalerai a Natale, guarda, a qualcuno. L'ultimo, guarda, voi lo conoscete, di Ignazio Silone? Sì. Uscita di sicurezza, sì. Va bene, grazie. È anche Paolo, abbastanza introvabile come libro. Esatto, grazie. No, ciao Paolo, ciao. Sì, ciao, è vero, ciao. L'hanno ristampato. Dobbiamo chiudere, abbiamo il traffico 800 24 00 24. Il secondo indizio l'abbiamo dato. È sulla bocca di tutti. E resiste. Adesso, come annunciato, parliamo di imprese, di attività commerciali in Italia e di attività imprenditoriali gestite da stranieri in Italia, perché le ultime statistiche ci dicono che l'Italia continua ad avere a livello europeo il primo paese per numero di imprenditori e lavoratori autonomi, lo sapevamo, ma all'interno di questa componente massiccia di imprenditori si segnala una crescente componente altrettanto massiccia di imprenditori stranieri, cittadini di origine straniera, che sono quasi il 10% del totale delle attività commerciali. Ne parliamo con Maria Fermanelli, presidente della CNA Impresa Donna. Buongiorno. Buongiorno. E anche con una imprenditrice straniera che è stata eletta come imprenditrice straniera dell'anno nel 2017 da MoneyGram Award, che è Iafresi Berenice Brown Omag. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo detto bene il nome? Sì. Eravamo agitatissimi, ci siamo visti stamattina alle 5 e un quarto per ricordarci bene il nome. Per fare il ripasso. Lei è una è straniera di dove? Da dove viene Berenice? Santo Domingo. Benissimo, da Santo Domingo. Allora, però, facciamo un piccolo passo indietro. Maria Fermanelli, CNA, quali sono le buone notizie? Decifriamole all'interno di queste statistiche che, ricordo, parlano l'Italia come un paese nel quale, nonostante la crisi, ci sono ancora tante imprese e in particolare crescono le imprese straniere. Sì, parliamo per l'appunto di circa il 10% delle imprese italiane, sono circa 450.000. E sono distribuite principalmente nelle grandi città, quindi in totale aderenza alla concentrazione delle imprese regolari. 450.000 gestite da cittadini di origine straniera su un totale di? Invece di imprese? Sono circa il 10%, quindi sono 45.000? Sì. 450.000 su 4 milioni e mezzo, quindi sì. Va bene. Che sono per la maggior parte queste imprese, diciamo, il totale è il totale delle imprese. Invece le imprese gestite da cittadini di origine straniera sono di un certo tipo, sono attività particolari, hanno delle caratteristiche? Guardi, sono principalmente concentrate nelle aree del commercio, dell'edilizia, ma stanno crescendo servizi e soprattutto sta crescendo la componente che si dedica all'artigianato. Quindi in buona sostanza questa imprenditoria immigrata sembra essere anche molto attenta a una sorta di raccolta dei nostri mestieri che vengono anche abbandonati se non riescono la a trovare un'evoluzione. Faccio un esempio, la sartoria, la classica sartoria. Infatti, potrebbe essere un caso. Parliamo della sartoria, parliamo della panificazione, no? Abbiamo tra l'altro Berenice, che saluto perché ci siamo conosciute al premio del Monogram. È un'imprenditrice che fa pane e anche lei testimonia. Io, tra l'altro, anch'io sono una piccola imprenditrice che produce pane senza glutine. Testimoniavamo entrambe la difficoltà, no, poi a trovare maestranze che abbiano la voglia di affrontare un lavoro come quello del fare il pane, che è un lavoro molto faticoso. Infatti sta toccando un tema molto preciso, perché siccome spesso si dice gli stranieri ci portano via il lavoro, qui stiamo parlando esattamente del contrario, perché gli stranieri che fanno imprese in realtà danno del lavoro, danno lavoro agli italiani, come il caso della storia che adesso racconteremo giustamente. Ma le volevo chiedere una cosa, quando, siccome si dice che appunto in Italia è il primo paese per numero di imprenditori e lavoratori autonomi, io mi chiedo, quando parliamo di ditte individuali, parliamo semplicemente di persone con la partita IVA o di persone che hanno un'azienda e danno lavoro a qualcun altro? Di entrambi i casi, e il fenomeno è anche proprio della crescita di questo secondo caso. Sempre più imprenditori stranieri si strutturano e quindi automaticamente assumono anche personale italiano. Un altro fattore interessante è quello proprio noi siamo pieni di paure, no? Quindi quando vediamo, se analizziamo questi dati che con il sostegno della CNA vengono raccolti ormai da 4 anni, noi vediamo in realtà che dei numeri che messi in assoluto potrebbero spaventare, in realtà portano anche dei vantaggi economici. Uno tra tutti, diciamo che il bilancio tra la spesa pubblica che si sostiene per gli immigrati e le entrate che gli immigrati versano in termini di gettito fiscale e di contributi è un bilancio che porta, lascia nelle casse assolutamente dello Stato più positivo di 3 miliardi di euro. Ecco, quindi... andrebbe detta con questa precisione con cui l'ha appena fatto lei e la ringraziamo. Cioè la bilancia fra quanto spendiamo per gli immigrati e quanto gli immigrati lasciano giù e contribuiscono al nostro PIL è a favore nostro. Punto. Certo, assolutamente. Io vorrei coinvolgere anche, mi scusi, Berenice. Assolutamente. Eccola qua. Allora, per raccontare anche un po' questa storia, no? Come succede che una persona quando sei venuta in Italia? Preferisca Roma a Santo Domingo, è questo che ci stiamo chiedendo. Forse perché qua fa freddo e noi vorremmo andare invece a Santo Domingo, scusami. No, sei arrivata in Italia quando? Nel 2012 mi sono sposata con un italiano romano, mi sono sposata. Sì. Siamo venuti a Roma e dopo un anno dovevamo ritornare a Santo Domingo. Perché vi eravate conosciuti a Santo Domingo? Sì. Dopo un anno dovevo stare un anno qua, perché lui doveva finire delle cose, e dopo io dovevo tornare là, che dovevo finire l'università, che non l'ho finito ancora. Sì. Ok, va bene. Quando sono arrivata qua con lui, sì, e avevamo visto, perché le mura del negozio sono dei parenti suoi, sono di famiglia. E c'è perché un'altra, tuo marito aveva un negozio, aveva già un negozio. No, allora, l'attività era la sua. Sì. Tanto tempo fa l'aveva dato in gestione a un'altra società e questa società le stava chiudendo. Ah, ok. Di che attività stiamo parlando? Che tipo di attività? Un supermercato e un panificio. Un supermercato e un panificio a Roma Nord, giusto? Sì, a Roma Nord, sì. Ok, stava fallendo e a quel punto sei entrata tu, hai pensato mi butto, ci provo. Ci provo, però senza sapere a cosa andavo incontro, questo me lo ricordo. Ti sei pentita? No, perché detta così sembra quasi che... No, è andato bene, però... Quando è un lavoro che non hai mai fatto, quando è una cosa che non c'è nessun tipo di esperienza, perché io ringrazio tanto mio marito che tanti consigli, tante cose mi ha aiutato, perché io veramente non ne sapevo proprio niente. Ma se ne occupava anche tuo marito o no? O te ne sei occupata da sola di questo supermercato o insieme a tuo marito? Solo da sola, ma se avevo bisogno di qualunque consiglio, qualunque cosa, mi dava una mano lui, però certo. Non è che lui, perché lui proprio... Il piano era tornare a Santo Domingo. Certo. Poi qualcosa è andato qua, ecco. Condivido il piano di tuo marito, sì. Effettivamente ecco. Senti, allora, ma Berenice, è vero che è stato difficile assumere un panettiere, nel senso che non sono tanti quelli che vogliono fare il panettiere. Per esempio, non hai un panettiere italiano? No, solo uno italiano. Il capo è uno. Un italiano e sotto, e sotto basta. Esatto. E poi basta, è difficilissimo trovare qualcuno che vuole fare il pane. Che è un lavoro duro, si lavora la notte, per quello. Sì, adesso da quando è il panificio, cioè, ho provato anche degli italiani, non è che voglio dire che gli italiani non vogliono fare, gli stranieri vogliono fare. Il discorso è che essendo un lavoro un po' pesante, un po' che ti deve alzare l'alba, un po' che noi facciamo pure... Una gran parte della lavorazione del pane la facciamo a mano. Ma a che ora inizia il lavoro del panettiere? A che ora inizia? Alle 5:30 già siamo tutti in piedi. Tutti là, già con tutto quanto accesso. Perché alle 8, alle 9 devono stare su ai negozi. Quindi uno si sveglia alle 4:30, insomma, per fare il pane. Allora non ha tutti... Più o meno l'orario in cui ci svegliamo noi, il sabato e la domenica mattina, quando veniamo in radio. Sì, però loro si svegliano tutti i giorni. Tutti i giorni. E infatti abbiamo panettieri che ci ascoltano il sabato mattina, lo so per certo. Però questo punto invece secondo me è molto importante e hai assolutamente il diritto di dire invece che forse gli italiani non hanno più voglia di fare questo tipo di lavori, quindi forse prima di lamentarsi è anche giusto ricordarsi che per te, cioè tu non è che vai a cercare degli stranieri, se vengono degli italiani vanno benissimo degli italiani, solo che non vengono, sono loro vengono. Che non vengono. Poi quando vengono durano una notte, fanno un giorno, due giorni, poi mi dicono non riesco più, non gliela faccio più. Non gliela allora, fanno più, gli italiani durano una notte, questo è perfetto. Una notte, guarda, devo dire la verità, è quel ragazzo italiano che prima ha durato 23 giorni, perché poi gli ho pregato un po', ho detto guarda, aspetta che ne resta un altro, devo lasciare così, ma ha durato 23 giorni, ma di solito durano una notte, due notte e dopo non tornano più. È difficile trovare qualcuno che voglia fare il pane, infatti quando dicono ci rubano il lavoro, in questo ambito qua della panificazione, che poi noi facciamo tutti i tipi di pane italiani, non è che facciamo, però ragazzi sono stranieri, è un mestiere che si sta perdendo fra gli italiani, che poi è una cosa bellissima fare il pane. Ah certo, il pane è una cosa bellissima, soprattutto quando vai a prenderlo caldo appena sfornato, ogni giorno è una meraviglia. Quindi, però per averlo, soprattutto dall'altra parte del bancone, certo, insomma. Certo. Maria Fermanelli di CNA, questa com'è la convivenza tra imprese italiane e straniere? Cioè noi siamo abituati a vedere la questione anche in termini appunto di concorrenza, perché il lavoro spesso scarseggia in Italia, c'è ancora tanta disoccupazione, troppa, e invece nel mondo delle imprese, questa componente di imprese di cittadini stranieri che sta crescendo, come viene vissuta, assorbita, come funziona? Parla con me. Io ecco, intanto volevo spezzare una lancia verso i panificatori italiani, perché in realtà abbiamo anche ottime maestranze, ma certo, veramente certo. Maestri panificatori. E nello specifico nella mia azienda ho una panificatrice donna che per l'appunto italiana, che la mattina alle 4 attacca il suo lavoro, quindi ecco, forse una componente importante che è uscita dai dati è anche questa vitalità femminile, perché Anche nell'imprenditoria immigrata le donne rappresentano una marcia in crescita. Sono sempre le donne a toglierci dai guai, abbiamo capito. Molto vero. Tra l'altro, noi ce la stiamo mettendo tutta, quindi diciamo che una parte di energia fa anche superare tante difficoltà, e proprio il fatto che il paese sia così un po' ingessato, no? e dia poche opportunità di lavoro dipendente, in qualche modo sia gli imprenditori stranieri ma anche le imprenditrici donne sono in forte crescita nel nostro sistema, proprio a testimonianza di questa energia. È chiaro che c'è bisogno di coglierla, di correlarla, di renderla, di non disperderla, di fare in modo che queste imprese, che hanno comunque delle intuizioni, delle volontà, perché c'è tanta anche imprenditoria innovativa, poi non si disperda per le difficoltà a crescere e a mantenere sia i livelli di impresa ma anche i livelli di occupazione, certo, per l'appunto. Io vi ringrazio entrambe, Maria Fermanelli, CNA, presidente CNA Impresa Donna, ma anche Berenice Iafreisi, imprenditrice straniera premiata nel 2016 come migliore imprenditrice straniera dell'anno. Grazie per essere state con grazie noi. Mille. Grazie mille. Buon pane, buona panificazione. Ciao, due donne. Era il festival del carboidrato. Due donne, tra l'altro, due donne. E agli ascoltatori, diciamo, oggi, se lavorate in un bar, in un ristorante, in una lavanderia, in un supermercato gestito da cittadini di origine straniera, la vostra puntata, chiamate all'800 24 00 24, potete dire tutto, anche che ci state malissimo, potete dire invece che ci state benissimo, potete dire quello che vi pare. Così come potete dirci chi è il personaggio della settimana. Andiamo in pubblicità, chiedo in regia, o facciamo subito qualche telefonata? No, pubblicità, poi torniamo con le risposte al personaggio che resiste ed è sulla bocca di tutti. Si può fare. Fiat festeggia Disney Pixar Coco al cinema e lo fa con un'offerta assolutamente, decisamente loca! Gamma tipo da 13.750 euro. E in più, per tutte le famiglie, 1.000 euro di extra sconto. Cosa? Famiglie, correte in concessionaria. Io mi sento un po'... Fino al 31 dicembre sulla pronta consegna. Info su fiat.it, anche sabato e domenica. C'è un piccolo territorio nel cuore della Lombardia, ricco di storia, arte e natura, patria di un vino di altissima qualità. È la Franciacorta, viti dalla storia antica e metodi moderni. Franciacorta, una storia di passione. Benvenuto nel sistema CombiVox. Inserire codice. Inserito impianto totale. La tua casa, i tuoi spazi sono al sicuro grazie al sistema CombiVox, che integra le funzioni di antifurto, videosorveglianza e domotica. Scegli CombiVox, garanzia di sicurezza made in Italy da oltre 30 anni, e goditi la tua tranquillità. Sempre. CombiVox ti protegge, ovunque tu sia. CombiVox. Enjoy life. Safely. CombiVox.it. Buongiorno, siamo Plan, la prima ONG al mondo, e pensiamo agli ultimi degli ultimi. Solo lo scorso anno abbiamo cambiato la vita a 1.900.000 bambine con istruzione, lavoro, libera scelta. Le nostre operazioni sono note, i nostri bilanci pubblicati. Fateci i conti in tasca, poi unitevi a noi. È urgente, è necessario, è una delle cose giuste da fare. Plan International Italia, www.plan-international.it. C'è qualche ascoltatore che non ha capito ancora bene come funziona, no? Come funziona proprio il sistema delle notizie, il nostro ruolo, quello delle persone che intervistiamo. Perché ci dice: controllate le notizie, oppure siete i soliti spacciatori di notizie false, il bilancio per gli immigrati, che cazzata. Non siamo noi a dirlo, caro ascoltatore. Se la presidente della CNA, impresa donna, cioè le imprenditrici donne in Italia, dice che questo bilancio è a favore, diciamo, del paese, cioè quello che ci costano gli stranieri e quello che ci portano in termini economici, lo dice lei. Ma in realtà, guarda, io non posso smentirla, non ho cifre per smentirla, lo dice lei, se ne assume la sua responsabilità. Dopodiché il calcolo lo puoi fare in mille maniere, naturalmente io non ho le cifre alla mano, lo ha detto lei, noi non spacciamo nessuna fake news. Io credo che questa cosa sia sostanzialmente, non è solo lei a dirlo, esatto, comunque l'ha detto anche quello dell'Inps, Tito Boeri, eccetera, preciso, eccetera. Nel senso che stiamo parlando dell'apporto al PIL da parte degli stranieri, e su questo non c'è dubbio, e della spesa che abbiamo nei confronti degli immigrati che arrivano. Così come ci ricordate che ci sono tantissimi panificatori italiani, acci picchia se ci sono, infatti lo ha ricordato anche la stessa Fermanelli, che pure lei tra l'altro c'ha un'impresa del settore alimentare, credo pasticceria. Abbiamo, cioè, sono i panificatori che lo dicono, quindi un po', ma è un po' difficile anche stare a dire menzogne, Luigi, notizie false, però fate molto ridere. Buongiorno Luigi, vai. Buongiorno, per me il personaggio della settimana è Fabrizio Frizzi, perché nonostante la sua malattia resiste ancora, e adesso ha ripreso la sua attività in televisione, e penso che sia ricordato da tutti per le sue doti televisive e quant'altro. Certo, resiste sicuramente, ha resistito anche a un momento difficile, e anche per questa notizia è stato sulla bocca di tutti. Poi è un personaggio della TV, quindi ci sta, ma non era effettivamente il nostro personaggio della settimana, in effetti, e quindi dobbiamo tentiamo ancora con Bruna da Bergamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora Bruna. Senta, resistete anche voi. Grazie. Ma cioè, è un invito o come dire un... Un invito a resistere alle provocazioni. Grazie, va bene, brava. È bellissimo questo e la ringraziamo moltissimo. Di niente, visto che è Natale siamo un pochino più buoni. Sì, sì. Visto che è Natale, perché poi il 2 gennaio giustamente invece ci chiama per bacchettarci. No, guardi. Ma noi siamo felici. Sinceramente io vi ascolto sempre più che volentieri, e ho 75 anni, posso permettermi di fare i complimenti e dire che siete bravi. La ringraziamo veramente moltissimo, moltissimo. Sono felicissimo. Vai. Senta, allora, per me è l'albero di Natale di Roma. Spelacchio, detto. Spelacchio, sì. che resiste, almeno speriamo. Resista sino a Natale, ed è sulla bocca di tutti. Beh. Giusto, giustissimo, è tutto giusto, siamo anche contenti di aver ricordato questa notizia di cui abbiamo parlato ieri, e di quanto invece rigoglio o rigoglio venga chiamato l'albero in Vaticano, ma non era il personaggio che abbiamo scelto, però grazie mille di tutte le cose che ci ha detto. Mi fa piacere aver parlato con voi comunque. Anche a noi. Vi auguro tante buone feste. Anche a lei, buon Natale. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Mi vengono in mente su Spelacchio tante cose, perché ci sono, bisogna dire la verità, l'albero di Natale tagliato, trapiantato con queste radici secche che poi muore, è una cosa che, cioè, io dico, ma perché non facciamo l'albero finto, fate l'albero con le lucine, oppure alberi di piccole dimensioni, perché abbiamo letto che se l'albero è di piccole dimensioni può resistere, altrimenti, cioè, sei per muore. La plastica? Sono per la plastica, per va una bene. Volta sono per la plastica. Carlo da Macerata, vai Carlo. Salve. Vai. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io penso sia il panettone Melegatti. Il panettone Melegatti? Penso di sì. Diciamo che panettone o Pandoro? Panettone Natale, Pandoro. Vabbè, la Melegatti è giusto. I suoi lavoratori, abbiamo scelto loro come personaggio che resiste, il panettone, il Pandoro, quindi l'azienda. Perché il simbolo, essendo Verona, è assolutamente il Pandoro. Però per Natale, insomma, hanno deciso i lavoratori e in molti si stanno impegnando, quindi è sulla bocca di tutti, non solo in quanto con lo zucchero a velo, ma anche perché che per, come gesto di solidarietà, di acquistare dei pandori di questa ditta, perché i lavoratori si stanno impegnando. E ciò ha tenuto in piedi l'azienda, che anche per questo anno, quindi, diciamo, ha scongiurato la chiusura. Speriamo che trovino un modo per andare avanti anche in futuro, quindi per arrivare anche a Pasqua, diciamo, anche a Pasqua con la colomba. Noi te la diamo, perché in effetti hai centrato la notizia, caro Carlo. Ti porti a casa i biglietti della mostra di Klimt allo splendido Mudec di Milano. Complimenti, bravo. Abbiamo un altro ascoltatore, Mario da Lodi, a questo punto non più per il personaggio. Non so se facciamo in tempo a dare un altro personaggio, ma direi di no. Direi no. Oggi di no. Vai, Mario. Pronto? Cosa volevi dirci? Vai. Il mio, più che un si può fare, è un si deve fare. Sì, perché sì. Anche stamattina ho rischiato di ammazzare uno. Quella, obbligate a far accendere le luci alle biciclette. Scusatemi se lo dico un po' così, no. Violenta la cosa. Ma non si preoccupi. Cosa è successo stamattina, Mario? Fai panettiere, no? Da Lodi a Cassano c'è la nebbia, sì. Non fortissima, ma anche i ciclisti sportivi accendono delle luci. Ma quotidianamente, cioè, io tu, scusa, eri in macchina stamattina presto con la nebbia e hai trovato dei ciclisti. Adesso, in questo momento, sì. Col viva voce, sì. Quindi regolare. giustamente, perché uno magari chiama per dire mettete le luci, intanto la fermano e le danno la multa, sarebbe antipatico, ecco. Effettivamente. Ma adesso non ci conosciamo, sono un po' così violento io nell'esposizione, però davvero è un pericolo e nessuno fa niente. Io volevo denunciare il sindaco di Lodi e il comandante dei vigili urbani perché veramente non fanno niente per queste biciclette. Ma in che senso fare niente? Cosa devono fare per le biciclette? Scusa, Mario. Cioè, datemi una multa a qualcuno, 10 lire, 20 lire. Ma siccome in Italia non c'è ancora l'euro lì, ma non è ancora arrivato l'euro, sì. Sì, senta, c'ho 61 anni. No, sta scherzando. Ma anch'io, però, guardi, anch'io. Io il mio stipendio lo discuto in lire, quindi la capisco benissimo. No, ha molta ragione in quello che sta dicendo. La vera cosa che ci chiediamo è se è con le multe che si raggiunge questo o se si riesce a trovare un modo per educarli. Per esempio, lei è forse più utile questa telefonata piuttosto che delle multe, che lei giustamente dice. Io sono un ciclista. Prego. Senta, io sono italiano come lei e so benissimo, anch'io vivo, non dico la giornata perché non è vero, però un po' così. Sì. E tante volte la bella cultura, ci vogliono i decenni e le generazioni. Una bella multa che ti fa schiacciare le orecchie. Io quando avevo 14 anni che mi beccavano col motorino in due, giusto. Mario, ma guarda, va benissimo, va benissimo. Più adesso va benissimo. Per le 1000 lire di multa che magari certe scappazioni dalle mamme. Forse c'ha ragione. Noi ti ringraziamo. Un po' di multe. Io ci aggiungo un'altra cosa, però. La multa la farei anche a chi apre lo sportello della macchina senza guardare dietro e quando passi in bicicletta ti tranciano la strada e sono dolori. Sì, perché... che quella forse la fanno, invece alle luci, alla bicicletta che non ha le luci, forse è più difficile. Ne abbiamo già parlato tante volte. C'è, da un certo punto di vista, più gentilezza nei confronti delle biciclette, forse perché sono dei mezzi che non inquinano, che sicuramente non ammazzano e così via. Poi qualcuno può dire ammazzano muori, nel momento in cui si mettono in mezzo alla strada, però ciò non toglie che è vero. Speriamo di arrivare in un mondo in cui tutti andranno in giro in bicicletta e quindi per forza le multe si daranno a quelli che non hanno la luce accesa. Traffico. Allora, adesso parliamo di un ecomostro. Senti com'è bella questa parola, ecomostro. A me piace questa parola perché riempie proprio la bocca, no? E già tu aspetti il momento in cui l'ecomostro venga abbattuto. Boom. Allora, ogni ecomostro è una storia, è la storia di una follia umana italiana, potremmo dire. Questo che vi andiamo a raccontare è una di quelle, né più né meno, forse di più. Sentite, allora, io leggo poi diciamo il nostro ospite, che intanto, vabbè, lo salutiamo, vai, lo salutiamo, è il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, buongiorno ai vostri spettatori. Siamo buongiorno. In provincia di Lecce. Allora, questa costruzione di cui andiamo parlando nacque per ospitare la nuova sede del comune di Nardò. E in che anno è stata iniziata la costruzione? Sì, la costruzione è iniziata contemporaneamente alla mia nascita, nel 1984. L'84, nei mitici anni 80. Mi sento male, mi sento proprio male. È costato 1.350 milioni di lire, perché effettivamente, cioè, stiamo parlando di 30 vent'anni prima che arrivasse l'euro. No, beh, 16, proprio una roba, cioè, non ci ricordo neanche proprio nell'84. E poi cosa è successo? Non questo edificio che storia ha avuto in poche parole? Non è mai stato ultimato, come era forse abitudine in quell'epoca, si chiedevano le cose senza finire, per terminarle, ed è rimasto lì. Perché non è mai stato finito, senza aprire un capitolo che duri da qui a domani? Cioè, in poche parole, mancavano i soldi, abusi? Mancanza di risorse economiche da un lato, e poi è stato esposto per 33 anni alle intemperie, che insomma non si è insediata la mia amministrazione. Nel 2016 noi avevamo nel programma elettorale, come tutte le altre coalizioni sono succedute a Nord, del vero, l'abbattimento di questo, cioè tutti lo dicevano di farlo, poi voi avete vinto e lo fate, anche perché ricordiamo che abbattere gli ecomostri ha un costo e spesso è anche piuttosto elevato, giusto? Diciamo che in queste circostanze, insomma, credo che siamo riusciti a strappare un ottimo prezzo, sono 92.000 euro ed è curiosità la stessa ditta che ha demolito Punta Perotti a Bari, sì, ad aver ottenuto il subappalto. Ah, pensavo la stessa ditta che lo stava costruendo, sarebbe stato straordinario, cioè riuscire a guadagnare anche... Diciamo che l'anno prossimo al suo posto, lo preannunciamo, sorgerà un enorme parco di 25.000 metri, sarà un parco pubblico per i più piccoli. Beh, questa è una notizia straordinaria. Allora, nascerà un parco. Io sto guardando le foto, no? Le foto su internet sono ferme a qualche giorno fa. L'abbattimento è stato ultimato? Compiuto? L'abbattimento, siccome ci troviamo in una zona molto particolare, di fronte c'è un importantissimo complesso monastico, la chiesa dell'Incoronata, quindi è una zona molto delicata, non si è potuto procedere con la dinamite, con l'esplosivo, ma con la demolizione meccanica, quindi durerà ancora altri 15-20 giorni. Quindi a forza di palle di ferro con la ruspa, sì, con la ruspa. Speriamo che ci sia anche Salvini. Esatto. Salvini viene a dare una mano per una volta, che la ruspa servirebbe veramente. Ma ecco, allora, io poi c'è una questione. Emiliano ha detto: quando si butta giù un ecomostro non è mai una buona notizia. Ora, Emiliano ultimamente ne dice tante. Per noi è una buona notizia, a prescindere, cioè, nel senso, sì, non è una buona notizia, intendeva il presidente, insomma, poi ha specificato meglio le sue parole, intendeva. Per lei è una buona notizia, no? Quello che dicevate voi, cioè, è un'ottima notizia, altrimenti non l'avremmo fatto, ovviamente. Quello che dicevate voi prima, cioè lo spreco di denaro pubblico dietro la realizzazione di una incompiuta. Diciamo poi che con questa amministrazione è venuta meno anche la ragione della stessa, cioè la nuova sede comunale, perché abbiamo trasferito tutti gli uffici comunali in un edificio di proprietà, l'ex tribunale di via Falcone e Borsellino, abbattendo tutti i fitti passivi per 85.000 euro l'anno. Meraviglioso. E anche questa è una buona notizia, perché di nuovo è un argomento di cui parliamo spesso, perché costruire nuovi edifici quando ce n'è di vecchi che si possono usare, e addirittura sono di vostra proprietà, quindi diciamo il famoso discorso del buon amministratore, chi è che prima, avendo una casa di proprietà, va a affittarne un'altra? Prima si preferiva affittare locali dagli amici degli amici, noi abbiamo azzerato. Esatto, ingrassare qualcuno. Senta, fra l'altro, Nardò, quanti abitanti fa? 31.800. Non sono pochi, però se guardate... La seconda della provincia di Lecce dopo il... Però è ottimo, perché il parco è di 25.000 metri quadrati, c'è quasi un metro quadrato a persona, abitante. Mi sembra straordinario. Certo, certo. No, è il più grande parco, perché non abbiamo... situazioni di questo tipo, quindi è una grande esigenza delle famiglie e dei più piccoli. Senta, 92.000 euro per abbattere questo edificio che da oltre 30 anni stava lì a ricordare un monumento appunto alla stupidità, alla burocrazia, all'inefficienza, alla corruzione, tutto quello che volete metterci metteteci, perché non sbagliate, secondo me di negativo l'avete tirato giù, complimenti, credo che ne sia valsa la pena. Che consiglio vuol dare ai comuni dove vorrebbero farlo? Spesso ci sono delle sentenze dei tribunali che dicono questo edificio va demolito eccetera, ma mancano i soldi. Voi i soldi da dove l'avete presi? I soldi sono interamente di bilancio, diciamo, in una realtà importante come quella di Nardò non è una cifra folle, è una cifra assolutamente alla portata, quindi se parliamo di realtà di questa dimensione sono 3 euro a testa con 31.000, quindi ha fatto il conto, ci sono anche 1.000 euro di bottiglie per festeggiare. Segniamo 400.000 euro per il rifacimento delle strade, quindi 92, una cifra assolutamente alla portata. Certo. Io l'appello che faccio ai miei colleghi è quello di avere coraggio, quello che è mancato a tutti gli amministratori del passato. Addirittura, diciamo che in queste ore c'è stata addirittura anche la levata di scudi da parte di taluni personaggi politici che sono gli stessi che nell'84 approvarono e sono ancora in campo. Diciamo. E cosa hanno avuto da dire, tanto per capire? Paventavano un danno erariale nel demolire sta bruttura. Un danno erariale loro, a voi? Ma il danno erariale, diciamo che il fatto che loro abbiamo fatto politica. Comunque, al di là di questo, noi siamo mossi sulla base della relazione del presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Lecce, che ha detto quella è una struttura con non solo pericolosa ma anche pericolante, quindi demolitela immediatamente perché il rischio anche per l'incolumità dei cittadini è rilevante. Una curiosità, ma dove vengono poi trasferite tutte le macerie? Allora, ovviamente viene espunto il ferro, che è abbastanza rilevante come quantità, viene utilizzata invece la parte che è possibile utilizzare, perché parliamo anche di una struttura con degli scantinati per colmare la buca enorme che si viene a creare con la demolizione. Ah, quindi una parte del cemento diciamo frullato rimane lì. Sì, per colmare l'area. Il resto poi verrà smaltito in qualche... Il resto verrà smaltito in discarica e servirà anche della terra per colmare ulteriormente la zona, perché insomma dobbiamo procedere, entro il 2019 sarà un parco. Quindi come lo chiamate il parco? Ce l'avete già il nome? Abbiamo già in mente di conservare, ho già dato mandato alla ditta di conservare una colonna della struttura per realizzare un monumento alla memoria dello stretto. Bello, molto bello. Mi viene da ridere perché c'è questa cosa che avete tirato giù, questo scheletro di cemento, almeno voi mi alleggerisce molto. Ogni volta che passo davanti a una di queste cose mi sento male e mi piacerebbe. Mi trovavo qualche giorno fa a Deboli ed era impressionante come si trattasse di una struttura identica, gemella addirittura, ed era un polo pediatrico in quel caso. Ce ne saranno decine di migliaia in tutta Italia, ahimè. Grazie al sindaco di Nardò, è tutto. Grazie per la puntata di oggi. Un ringraziamento ad Andrea Piana, Claudia Schiattone, Alessandro Longoni in assistenza in diretta quest'oggi, Andrea Roccabella in regia. Ci sentiamo sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizi e ciao e buona domenica da Carlo Gabardini. Ci ascolta il podcast.